un'introduzione musicale. Poi va bene, proviamo così. Quello che leggeremo potrebbe sembrare strano dopo questa canzone, dopo i panorami hawaiani. Vi devo dire che nelle nostre presentazioni, siccome il libro è denso e ricco di personaggi, ogni volta parliamo di un personaggio diverso. Allora, vi pronuncio che il personaggio di stasera si chiama Ben Verbenosta ed è un giornalista oriundo di questa provincia, che però si è trasferito alle Hawaii, ma è molto legato a quello che succede nella sua provincia, perché dal suo, diciamo, esilio dorato, lui è andato alle Hawaii perché ha voluto scappare da qui, ma mantiene sempre un bel contatto scrivendo degli editoriali su un quotidiano telematico, in modo che tutti li possano leggere e nessuno li possa censurare, perché lui scrive dalle Hawaii, viene pubblicato da un quotidiano hawaiano e quindi diciamo la longa manus dei politici locali non può farlo tacere. E cominciamo proprio con un editoriale di Ben Verbenosta. Chi sono loro? Questo è il titolo dell'editoriale. Le transenne del monumento alla Vittoria sono ancora sporche di sangue. Ci hanno messo 3 giorni a portare via la carcassa dell'orso. Per fortuna non era giorno di mercato e per fortuna i turisti sono tutti concentrati sul mercatino natalizio di Piazza Walter, cosa che ha impedito ai più di rendersi conto di quanto è accaduto. Ma i bolzanini che vi transitano, o peggio vi abitano, l'hanno visto e probabilmente ne sentono ancora l'odore. D'altronde non è cosa di ogni dì che un orso si aggiri per una piazza cittadina, soprattutto quando dovrebbe essere in letargo. Ma si sa, per quanto ci sia la neve, le stagioni sono cambiate e l'orso può aver subito negativamente i mutamenti climatici e ambientali cui il pianeta è soggetto. La nevicata anomala dello scorso agosto deve averlo fatto cadere in un letargo precoce, cosa che lo ha portato ora ad essere sveglio e vispo come non dovrebbe. Ma occorreva davvero sparargli? Quando era successa una cosa analoga con un cervo, alcune estati fa, si erano sollevati almeno gli ecologisti, stavolta nemmeno loro. mi permetto di supporre che siano ormai più in estinzione di molte specie protette. Qui, da dove vi scrivo, se si va in barca a guardare le balene, bisogna addirittura spegnere il motore quando ci si avvicina ai cetacei, per non infastidirli. Solidarietà tra mammiferi, spesso ricambiata. Loro, che conoscono il mondo da prima degli uomini, a saperli ascoltare ci insegnano sempre delle cose, proprio in virtù di uno spiccato senso del contrappasso che sta a noi far sì che non assuma proporzioni tragiche. Ora, qualcuno potrebbe obiettare che l'orso poteva starsene a casa sua e che l'intruso fosse stato piuttosto lui e non chi gli ha sparato senza porsi alternative. Ma siamo sicuri che si tratti della stessa città che per decenni ha curato e accudito un orso in cattività presso i suoi giardini municipali? Io me lo ricordo l'orso Pippo, e credo anche voi, e probabilmente anche loro, quelli che hanno lasciato che l'orso di Piazza Vittoria venisse ucciso. Certo, Pippo era uno swally perfetto. Gli swallies sono i migliori interpreti della Südtiroler Way of Life, testimoni di una biodiversità rispetto al genotipo locale, che vivono delle esistenze parallele a quelle della razza dominante, senza protestare tra le quattro mura che questa ha eretto loro intorno. Ci volle un bimbo di 5 anni, come nella favola dei Grimm, per dimostrare che il re era nudo. In un precoce gesto di ribellione al sistema locale, il marmocchio ruppe gli schemi imposti e si gettò dall'alto all'interno dello spazio riservato all'orso, benché fosse rimasto al suo posto senza fare nulla di sbagliato nemmeno all'intruso. Pippo si beccò nell'occasione una fucilata, per fortuna solo di narcotico, dal potere che lì lo aveva messo. Poco dopo, nonostante il suo vivere in disparte, fu vittima della rinata intransigenza contro il diverso, dovendo subire un'altra eruzione nel suo recinto da parte di un giovane nazischin sotto benzedrina, che lo assalì procurandogli delle lesioni nel tentativo di tatuargli una svastica sul pelo. In capo a un paio d'anni, non sentendosi amato, Pippo scelse di togliere il disturbo da sé, si ammalò al punto che dovettero sparargli. Non fu più rimpiazzato, e qualcosa mi dice che la nuova vittima di plantigrado dovesse essere un lontano parente che da un po' non aveva sue notizie e lo veniva a cercare a Parco Petrarca. Al suo posto oggi sorge però un treffpunkt per infanti chiamato Pippo. Benché, bene, perché l'empatia tra i bimbi e gli orsi, specie quando non sono reclusi in gabbia, è certa. E non mi riferisco solo al fatto che tra i peluche sia ancora l'orsetto il più gettonato dai bambini per fare loro compagnia sul cuscino in attesa del sonno. Pochi mesi fa, non invitato da nessuno, come un qualsiasi papi avrebbe fatto con la sua Noemi, un orso si è presentato al compleanno di una ragazzina festeggiata in giardino dai suoi amichetti, mentre le mamme, ignare, erano sedute in casa, rapite dalla voglia di spettegolare sulle compaesane. Assaggiata la torta, fatte 2 mossette per divertire i bimbi, l'orso è andato da dove era venuto. Si tratta di uno degli esemplari della nutrita pattuglia di orsi sloveni deportati qui dal potere locale per ovviare all'estinzione per nostra mano della specie in questi monti. Visto già con Pippo che alla lunga separarli non funziona, prima di liberarli nei boschi è stato tanto loro raccomandato di rimanere al posto assegnato e per controllare che non scantonassero sono stati dotati di radiocollare. Come tutti gli immigrati, contrariamente a quello che racconta la propaganda politica di questi anni, anche loro non desiderano però altro che tornarsene a casa propria e infatti l'intera mole dei loro movimenti monitorati è finalizzata in qualche modo alla direttrice Val di Sacco, Pusteria, Carinzia, Lubiana, a volte passando per Bolzano. Non sono veri swallies dunque, non stanno qui buoni buoni. Ovvio che il loro rancore si rivolga accidentalmente verso gli adulti, rei di questo scherzo pesante consistito nel rapirli, e contro le loro cose. Gli adulti, specie quelli nati nei 60, se incontrano un orso sono infatti irresistibilmente attratti dall'opportunità di sparargli e di verificare così se è vero che si muove poi in quel modo buffo in cui si muoveva quando sotto vetro gli tiravamo nelle sale giochi con il fucile ad aria compressa. Poi c'è questo fatto che se ne vanno, inconcepibile per alcuni e per altri too great to bear, cioè insopportabile, detto come si dice qui all'americana, tanto per restare sul bear, bear o orso, fate voi, ci credo, è come se loro vi avessero assegnato una bandiera nera, territorio non adatto alla vita naturale, giudizio inappellabile e tanti saluti. Si tratta solo di esempi, tanto per svegliare una coscienza ambientalista o ecologista che dir si voglia, che voi bolzanini dovreste avere nel DNA, e invece qualcuno vuol farvi dimenticare o addirittura cancellare. Fonti attendibili mi dicono che qualcosa sta per accadere sul virgolo, ma nessuno dice nulla, perché i media ve lo nascondono e l'informazione è distorta. Un giorno vi sveglierete scoprendo qualcosa che non vi piace, e sarà tardi ormai per fare qualunque cosa per poter proporvi rimedio. Vi hanno bombardati di informazioni che dipingono chi va in bici come un delinquente comune, il tutto dopo aver creato piste ciclabili in luoghi del tutto inadatti, e hanno cominciato a far fioccare multe di ogni tipo a chi gira in bicicletta. Ma non era questa la città verde per definizione? E la multa ai pedoni che infestano le piste ciclabili, chi la fa? Ve lo dico io, nessuno. E nessuno la farà a quelli che girano in ciclabile con gli schirol. Avrà a che fare col fatto che il sindaco è un fondista? Più probabilmente il tutto ha a che fare col fatto che vogliono obbligarvi ad andare in macchina per giustificare il progetto di una nuova strada arginale sopraelevata, che, oltre a deturpare l'orizzonte irrimediabilmente, porterà denaro o altro nelle casse di chi l'ha progettata. Forse il tarlo comincia a lavorare nelle nostre menti, e mentre diventa ben chiaro chi siamo, diventa altrettanto chiaro chi sono loro, quelli che ci governano, tanto simili se non uguali a coloro che vorrebbero governarci. La differenza, le differenze sono invisibili. Farete bene a ricordarvene quando verrete chiamati alle urne. Io non ci sarò, resterò qui, alle Hawaii. Ma voi, ricordatevene, chiunque sceglierete per sindaco dovrà essere prima di tutto una persona affidabile. Uno o una che vi ispiri fiducia. Uno o una che non, vi lasci, che non si lasci risucchiare dai malefici meccanismi della politica. Uno o una che non cominci a chiamare amico qualcuno solo per il fatto che questo qualcuno è un alleato politico o un compagno di partito. Uno o una che sia in grado di non perdere d'occhio la realtà quotidiana e i suoi valori. Se al momento di votare queste cose non vi sembrassero più così importanti, significherebbe infatti che non siete più voi stessi, ma quello che loro vi hanno detto di essere, degli swollis remissivi che stanno al proprio posto. Ecco, io non avevo più riletto questo passo da quando abbiamo fatto le correzioni, e c'è questi riferimenti a Arginale, cioè, li abbiamo scritti un anno fa, anzi un anno e mezzo fa, e sembra che sia sempre tutto attualissimo. Anche non volendo, alle spalle continuano ad andare le immagini, sono sempre le stesse. Ma dovete anche illustrarci le immagini, sì, già che ci siamo. No, illustrano altre parti. Questo qui è un altro momento del libro. Comunque qui mi è dato l'idea di questo signore che se ne sta alle Hawaii, lui e un altro bolzanino sono alle Hawaii. Diciamo che un po'. Questo qui è un po' di tutti e due, come un po' di tutti e due è un altro personaggio che dalle Hawaii viene a Bolzano, e mentre l'altro bolzanino che è alla Hawaii non è nessuno di noi due, no. È il puparo della situazione, anche se puparo è un brutto termine perché si usa per parlare dei mafiosi e il nostro personaggio non è un mafioso, però è quello che muove un po' i fili della vicenda. Vicenda che ruota intorno all'elezione di un sindaco a Bolzano. Di un sindaco o di una sindaca, come auspica Denver Venosta nel suo articolo, e che poi non vi diciamo come andrà a finire, ma la storia si gioca sulla campagna elettorale fra due donne candidate sindaco. una buona e una cattiva, questo si può dire, perché noi crediamo ancora che ci siano i cattivi ma che ci siano anche i buoni, perché se si smette di pensare che esistono i buoni diventa molto critica la situazione. Qui siamo sulla Big Island delle Hawaii, questo qui è un disco natalizio, e questo qui invece è una gelateria, bar, bazar, un po' di tutto, in cui si svolge una parte del libro prima di quella che vi abbiamo appena letto, in cui il personaggio Pellegrino Rossi, che è il bolzanino trasferito alle Hawaii, comincia a pensare di sponsorizzare, perché lui è ricco sfondato, la candidatura a sindaco di sua sorella, che vive male, lo sta a Bolzano, e cioè lei ama molto Bolzano ma non è contenta di come è governata e di come vede Bolzano da casa sua, e quindi si propone. Diciamo, lui decide di darle questo input a candidarsi per fare il sindaco, con un piccolo aiuto di Denver Venosta, che è un ex fidanzato di questa sorella e che anche lui è alle Hawaii. Ma alle Hawaii è un luogo ideale? Aiuta! Io ci sono stato, lui. Aiuta! Ah, lui c'è stato, io ho scritto le descrizioni. Lui è stato le descrizioni. E non sono il primo che fa uno scherzetto del genere, basta pensare a Emilio Salgari, per cui... Sì, che non era mai stato. Che non era mai stato, infatti. Io sono stato più preciso di lui, perché lui non aveva Google Earth, che è questo sistema per cui ingrandisci le cose in foto, le mappe di qualsiasi parte del mondo. Questa è la moto di Denver Venosta. Esatto. Denver Venosta gira per le Hawaii su questa moto, non su questa, quella di prima. In realtà si sposta in traghetto, perché sono delle isole, però lui ogni volta che si muove da un'isola all'altra carica la moto sul traghetto, poi in realtà gli spazi da percorrere in moto sono minimi, però lui ha deciso che alla motocicletta non rinuncia, no. E c'ha una bella moto d'epoca, insomma. Esatto, una delle migliori. E possiamo vedere una scena in traghetto? Vai a vedere, sentiamo cosa fa Denver Venosta in traghetto, alla sua prima apparizione. Viene nominato più volte all'inizio del libro, prima come il baffo, poi come Denver Venosta, e poi c'è questa sua prima apparizione sul traghetto. Ecco, questa foto vi verrà in mente sentendo la lettura di adesso, perché se questa fosse acqua anziché una nuvola, questa è la Valle dell'Adige, ci farebbe pensare a uno scenario che il nostro personaggio di oggi si immagina. Questa qui è la Big Island, come. Invece, con i due vocoli, penso che sia la Big Island. Penso che sia Kaulaue. Ah, quella, perché mi pareva più... Questa è la Lahaina, dove sta andando adesso con il traghetto, abbiamo delle diapositive. E dove c'è la redazione del giornale su cui scrive. C'è un terzo bolzanino che va alle Hawaii in questo libro. Il primo che ad andarci è Pellegrino Rossi, che va a godersi i suoi soldi. Il secondo è Denver Venosta, il terzo è il sindaco di Bolzano, che viene fatto sparire alle Hawaii con un artificio che è quello da cui trae poi origine il titolo del libro, ma che vi diciamo dopo. Adesso sentiamo il nostro Denver, il personaggio di oggi. Allora, Denver Venosta benediceva ogni volta le panche di legno sul ponte del Postale per la Caina, lisce e spaziose a sufficienza da accoglierne il corpo esausto in posizione supina per un riposo duraturo, ossigenato e, volendo, panoramico. Con soli $20 i marinai del US Postal Service caricavano lui e la sua moto, una Ducati Scrambler del 74 in ottime condizioni, offrendogli cicchetti e birra puntualmente ricambiati da altrettanto appagate fumate di Hawaii Weed. Altro che i $60 sborsato un paio d'anni prima sul traghetto di linea gestito dalla Super Ferris. Per un posto ponte reso scomodo da una sagomatura delle panche in plastica pensata per star seduti e non certo sdraiati. La schiena gli aveva fatto male alle due estremità per parecchi giorni a venire, e il viaggio si era concluso in una località distante da quella d'arrivo prevista, stante la protesta dei nativi che avevano occluso la bocca di porto alla Caina con centinaia di piroghe a bilanciere. La linea, così invisa alla popolazione locale, era stata subito soppressa e la compagnia di navigazione si trovava ora a fronteggiare la bancarotta. Non che alle poste statunitensi girasse tanto meglio. i 104 uffici postali dell'arcipelago, afflitti da ingenti perdite, erano tutti a rischio chiusura e i dipendenti ricevevano già da tempo lo stipendio a singhiozzo. Proprio per questo i marinai del postale si sentivano quasi autorizzati ad arrangiare qualche trasporto fuori sacco, intascandone onestissimi proventi. Socchiudendo gli occhi, accarezzato dal vento, Denver decise lì per lì che appena sbarcato si sarebbe concesso qualche ora di spiaggia proprio alla Old Airport Beach di Canapali, una splendida lingua di sabbia bianca affacciata sul Pailolo Channel, con vista sulle asperità della dirimpettaia isola di Lanai e della più lontana Molokai. Gli piaceva perché era una delle rare spiagge negli immediati dintorni di Lakaina a non essere fiancheggiata dalla Honoapilani Highway, la lunga strada costiera che connetteva le principali località della parte settentrionale di Maui. Il postale, intanto, aveva spento il motore e beccheggiava appena era quieto sul mare vivace. Il suo scarno equipaggio mostrava le terga affacciato alla paratia di poppa. Alzando un poco il capo da sdraiato, Denver lanciò un "Weapons" inquisitore. "Whales", fu la risposta in coro. Non avrebbe saputo dire quanto, ma di sicuro aveva dormito. A sufficienza da poter scorgere a mancina l'arcigna Kanapu Bay, che tra pareti strapiombanti in mare celava una delle poche spiagge praticabili di quel meteorite lunare che è l'isola di Kaulaui. A dritta, l'ala Keiki Channel alimentava le baiette dell'Aquarium, così i turisti avevano ribattezzato la movimentata orlatura dell'ampia insenatura di La Perouse, lato sud-ovest dell'isola di Maui. Aveva sognato tetide, spruzzi di balene affioranti in un vasto braccio di mare insinuato tra le cime dell'Atemar e il dente del Macaion, con il limite della vegetazione boschiva ad affondare le sue radici nelle acque. A bordo di una piroga, in leather hosen e tutto il resto, l'inconfondibile sagoma di Andrea Schoffer pagaiava lungo la riva, ripetendo come un mantra: "Wir Südtiroler wären uns gegen den Rückzug des Wassers". Ora, va bene che il Dipartimento di Geologia e Scienze Planetarie dell'Università di Pittsburgh aveva dimostrato la presenza di dolomia nel non salinico suolo quaternario della penisola di Koala, poco a nord di Kona. E va bene pure che tra le valli di Fassa, Gardena e Badia un esercizio alberghiero non poteva dirsi tale se non praticava il richiestissimo massaggio hawaiano. Comunque, queste sovrapposizioni tra ambiente marino e alpino, tra le Hawaii e il Sud Tirolo, lo inquietavano leggermente. Tirandosi a sedere, Denver si ripromise di far cenno della cosa al suo fornitore di scambio. Questo è Denver Venosta, il giornalista freelancer di Makahiti. Diciamo cos'è Makahiti adesso. Makahiti, sì, da dove abbiamo preso il titolo? L'abbiamo preso dal ramo d'oro di Fraser, famoso antropologo che analizzando varie tradizioni nel mondo, diciamo, proprio partendo dall'uso ad Ariccia sul lago di Nemi di in corrispondenza circa della fine dell'anno, di giustiziare il re, perché durava in carica solo un anno e alla fine del mandato veniva giustiziato, ha cercato tutte queste tradizioni in giro per il mondo e ha scritto questo libro che è abbastanza famoso e che è stato molto saccheggiato da leggende anche dei primi del Novecento, raccolte di fiabe che prendono ispirazione dal ramo d'oro anche a livello locale. Makahiti, diciamo così, è il Natale hawaiano, dove anche alle Hawaii, fino diciamo al 1500-1600, anche oltre, selvaggi, fino alla fine del 1700 la tradizione era in voga, per cui alla fine dell'anno diciamo il governatore delle isole veniva passato per le armi, ne veniva nominato un altro, eccetera eccetera. È buffo nel libro di Fraser trovare diciamo così tutti i paralleli in giro per il mondo, a partire proprio da questo nostro laziale che pare sia l'origine di questa usanza. In particolare in Africa ci sono spesso descritte delle scene comiche dove al re che sta per prendere il mandato per governare un anno cercano di dirgli: guarda che non ti conviene perché alla fine ti facciamo fuori e poi è un ruolo difficile, ma perché lo fai? Ma sei sicuro che lo vuoi fare? Guarda che è un compito difficile. Pure gli sputano, lo offendono, lo tengono per 2 settimane in prova, diciamo così, e poi diventa re, ma sapendo che alla fine del mandato viene ucciso. sia che abbia governato bene, sia che abbia governato male, naturalmente. Ma Kaiti è il Natale hawaiano, adesso la tradizione, diciamo, è solo figurata, chiaramente, con delle lance. È un'occasione per fare una festa tradizionale, sì, ma non occupano più nessuno. E allora noi abbiamo pensato che non potevamo occupare noi qualcuno se non lo occupano loro, però lo spunto era quello che per proporre un nuovo re, o nel caso della Bolzano del Libro, un nuovo sindaco, bisognava togliere di mezzo il sindaco in carica. E la cosa più bella da fare era farlo sparire alle Hawaii durante le festività del Makahiki. E quindi ci siamo inventati tutta questa trama che porta appunto il terzo bolzanino a essere alle Hawaii, ad essere il sindaco uscente di Bolzano. Sindaco uscente che è in odore di ricandidatura e quindi è in cerca di consensi. Qualcuno, volutamente, questo qualcuno è Pellegrino Rossi con le sue manole, gli fa credere che una buona scusa potrebbe essere un gemellaggio tra Bolzano una cittadina delle Hawaii, questa che abbiamo nominato, dove era stata trovata il suolo, queste sono notizie vere chiaramente, che ci hanno solo un po' ispirato chiaramente, dove è stata trovata della dolomia proprio in una zona al di fuori. Allora, siccome le coincidenze sono molte, no, fra Bolzano e questa località, è venuta fuori questa storia del gemellaggio, cui il nostro sindaco abbocca, anche perché è convinto così, ha dei convincimenti, vuole fare come lì una specie di casa di riposo per bolzanini quando finiscono di lavorare. Spera che questa nuova relationship con gli americani possa portare a sottrarre a Vicenza la base NATO che i vicentini non vogliono, e a farla qua, così alla scusa per ampliare l'aeroporto di Bolzano, far pagare i lavori agli americani. Cioè, il sindaco è molto attivo, gli piace molto questa idea del gemellaggio con gli Stati Uniti, diciamo così. Ma non sa invece che questa è tutta una macchinazione per farlo andare lì e farlo sparire. Lui, per andare lì in segreto, si inventa, racconta che sta andando a una cena di Capodanno al Passo dell'Umbrail. Prima avrete visto una fotografia di questo passo che si trova a cavallo fra l'Italia e la Svizzera, è una sorta di alternativa al passo dello Stelvio per non fare tutte quelle curve, però è anche molto selvaggio, io me lo ricordo non asfaltato, sì, confermo, perché l'ho fatto in moto di recente, per cui sì. E viene fatto invece naufragare su un isolotto che è quello che Denver e Nostra vedeva dal traghetto, e rimane per mesi isolato su questo atollo hawaiano, mesi in cui ha tempo di riflettere su un sacco di cose che non hanno attinenza comunque col parlarvi di Denver e Nostra, che è invece il protagonista di questa serata. E a questo punto vi leggiamo, vediamo come, se riusciamo a farlo bene, perché ci sono i dialoghi, quindi... Ah sì, giusto. A pagina 88. Non ci riuscirà questa cosa, ce la proviamo lo bene, stesso. Ma noi ci proviamo. A un certo punto del libro succede che Denver e Nostra si sposa con Lupe. Si sposano sulla Big Island delle Hawaii e Lupe è la proprietaria di quello ice cream parlor che si vedeva prima, quel bazar strano in cui Pellegrino Rossi comincia a elaborare le sue teorie sulla candidatura della sorella. E niente, questo è un momento di pseudo-romanticismo che non manca di fare qualche comunque critica a qualcosa della nostra provincia, insomma. Non c'è che dire, questo Monte Cristo è un'autentica favola. Non mi sta insegnando nulla di nuovo, Da quando posso non me li sono mai fatti mancare, sigari così. Non posso biasimarti, solo che fino a poco tempo fa da noi erano tabù. Tabù. Diciamo che era ora che il tuo paese togliesse l'embargo a Cuba, e non solo per una faccenda di sigari. Mi trovi totalmente in accordo con le tue vedute, socio. fosse stato per me, avrei cambiato le cose molto tempo prima. Dalla collina di Puohola Eyau, su cui sorgeva un monumento eretto da Re Kamehameha il Grande, Setula Lilali e Pellegrino Rossi guardavano le megattere tuffarsi nei riflessi dorati di un mare che andava tingendosi di raggi di sole. Tutto era pronto per la cerimonia nuziale, che quella sera, in coincidenza col solstizio d'inverno, avrebbe unito in matrimonio Denver Venosta, detto il Baffo, e la Solare Lupe, l'arguta, amabile e avvenente proprietaria del mini market di Kona. Una cerimonia organizzata in semplicità, nello stile di Lupe e Denver, con pochi amici fidati. Il catering era stato affidato a Mamma Rossi, che aveva imbandito una serie di tavoli con succulente italiche specialità. Pellegrino aveva tirato fuori dalla sua cantina alcune pregevoli bottiglie. Clark e il suo gruppo avrebbero provveduto alla musica dal vivo, rigorosamente a base di classici di Elvis Presley. Quanto agli invitati, ci sarebbero stati i marinai del battello postale: Naele Hula Dance, direttrice dello Star Bulletin di Lahain, Ma Fletcher e le sue bambine, Gomez Lafronde e Marvin Marvelous, ospiti fissi del Loggio Rossi, Matilda Larissa e Dallas Grillparzer, le migliori amiche di Lupe, e Groover Aimea, che aveva portato come offerta votiva una bella scorta di erba vaiana abilmente imboscata dalle piantagioni di Pahoa, nel distretto di Puna, parte meridionale dell'isola, presso cui lavorava come cernitore. In ritardo cronico sarebbero arrivati anche Washington O'Rourke, direttore del Bishop Museum di Honolulu, e suo fratello Leprechaun. «Ho sentito mia sorella stamattina», disse Pellegrino. «Che?» «Non era molto per la quale, sai, lei le sue scelte le ha fatte molto tempo fa, e quindi non ha nulla da recriminare, ma il fatto che oggi Denver si sposi è per lei un momento di riflessione, e nemmeno troppo felice». «Ma per quanto riguarda la sua candidatura a sindaco di Bolzano?» «Sta lavorando a un programma credibile. Dice che non vuole promettere cose impossibili da mantenere, ma neanche arrivare lì senza mostrarsi di prospettiva. Non so se mi spiego». «E quando pensa di presentare la candidatura?» «All'ultimo momento, quando tutti gli altri soggetti in lizza saranno alla convention di San Candido, in modo da spiazzarli al loro ritorno». «Spettacolare! E le notizie che manda Venere sono molto confortanti a riguardo». Seth sorrise furbescamente. Presso il suo stand natalizio in Piazza Walter, fa compilare sotto banco ai bolzanini un questionario circa l'eventualità che venisse eletto un sindaco donna. Non ci crederai, ma i favorevoli sono di gran lunga superiori rispetto ai contrari, ai dubbiosi e perplessi. «Non mi dire, sembra proprio che la mia città abbia deciso di cambiare». Qui abbiamo fatto ci siamo scambiati. Ci siamo scambiati. Vabbè. Lo sapevo, me l'avevo detto. «Pelle, guarda là, sta arrivando lo sposo!» Seth esalò una nuvola di fumo intrisa dell'aroma di sigaro cubano. Sulla cresta della collina si distingueva la sagoma di Denver in sella alla sua Ducati Scrambler, e pochi attimi dopo i due soci furono raggiunti dal futuro sposo. «Aloha, amici!» «Aloha a te! Era ora che arrivassi. Siamo qui che facciamo un dannato sacrificio per non spazzolare le prelibatezze imbandite da mamma», disse Pellegrino ponendo un lei intorno al collo dell'amico. Parentesi, il lei sono le colonne floreali hawaiane. «Già», fece eco Seth, ecco ci siamo ripresi i personaggi, «non vedo l'ora di assaggiare questo prosciutto affumicato che ha mandato Venere». «Si chiama speck», lo corresse Pelle. «Speck, prosciutto, che differenza fa? Sempre di porco si tratta». «Sei un blasfemo», continuò Rossi. «Oltretutto», si intromise Denver, «si fa anche con parti differenti del maiale. I contadini di montagna lo mangiano tagliato a cubetti, proprio come lo ha preparato tua mamma. I cittadini invece lo affettano fino fino e ci mettono vicino il cetriolo in agrodolce». «Ha ha ha!» A Seth scappò una risata spontanea. «Cazzo, Baffo, hai proprio la sindrome del cronista amante della precisione!» Risero. «Comunque, se mai ti capitasse di passare dalle nostre parti, Seth», continuò Denver, «non devi perderti l'insalata di cappuccio che si prepara con lo speck sminuzzato». purché sia fatta con spec di montagna. Che significa? Chiese Seth, confuso. Il tuo socio intende dire che bisogna distinguere tra lo spec di produzione contadina fatto con maiali cresciuti nei margini di montagna e quello dozzinale fatto con maiali da allevamenti provenienti dall'Olanda. Nel nostro bel paese delle contraddizioni, l'economia è stata fondata sullo spec per tanti di quegli anni che se dovessero esserci tanti maiali da produrre tutto lo spec altoatesino venduto nel mondo, in Alto Adige ci sarebbero tanti suini da non esserci più spazio per i cristiani. Così i maiali li comprano altrove, ma sulle etichette ci stampano che lo spec è Echt aus Südtirol. Volete piantarla una buona volta? I vostri discorsi li continuerete in altra sede. Era la voce di Ma Fletcher che tuonava dalla strada. Non vedete chi sta arrivando? Hai ben altro a cui pensare ora, Denver Venosta? Lungo la strada che conduceva alla collina stava arrivando la sposa. A bordo della Morgan di Seth, con al volante la direttrice dello Star Bulletin, Lupe, baciata dai raggi di un sole in perfetta tinta con la sua pelle, era più raggiante che mai, degna erede di intere stirpi di uaine da cui in parte discendeva. Un holoku arancione decorato con fiori di ibisco le cadeva con leggerezza dal petto rigoglioso fin giù ai fianchi sinuosi e al ventre leggermente arrotondato. Le tre damicelle le corsero incontro e la scortarono lungo il sentiero fino al luogo della cerimonia. Il suo arrivo fu accolto da uno scroscio di applausi. Batteva le mani anche il monitor di computer appoggiato al centro tavola su una piastra girevole, normalmente adoperata per rendere più democratica la fruizione degli appetizer durante il rito del drink al tramonto. Era Venere, in teleconferenza da Bolzano, che attraverso gli speaker sempre accesi aveva licenza di commento delle immagini a 360 gradi, raccolte dalla webcam fissata sul bordo superiore dello schermo. «Rossi! Rossi!» chiamava a gran voce il poveretto. «Non c'è solo lo spec, c'è anche il mio regalo per la sposa! Rossi! Dove sei sparito? Ah, rieccoti! Guarda sotto il tavolo dove mi trovo! Rossi! Puoi almeno fermare per un po' questa piastra girevole? Credo mi stia venendo da vomitare!» Pellegrino Rossi, richiamato da quel clamore, raggiunse il tavolo e fermò il meccanismo rotante del centrotavola. «Ehi, ma dove mi blocchi? Vista mare! Ma il mare delle Hawaii lo conosco bene, siete voi che voglio controllare!» Pellegrino si limitò a ruotare il volume degli altoparlanti sullo zero e scostò il lembo della tovaglia. A momenti gli prese un colpo. C'era un piccolo frigorifero in funzione. Ne aprì distinto la porta e dall'elettrodomestico si liberò una cascata di scuri cilindretti gelidi a ricoprirgli i piedi, mal protetti dalle sue solite infradito. «Ah!» La sensazione di freddo gli strappò un'esclamazione. «Ma cosa diavolo succede?» La parete di fondo sul frigo era visibile, recava un foglio dalla scritta inequivocabile. «Mi si sono gelati gli stronzi in culo. Gusto tamarindo e cioccolato.» «Cazzo!» sussurrò per sé Pellegrino. «Venere ha pensato anche al dessert.» E questo è un riferimento all'inizio del libro, quando Venere esprime il desiderio di andare a vedere l'Alto Adige e Pellegrino, che dall'Alto Adige era andato da Hawaii per il caldo, gli dice: «No, ti si gelano gli stronzi in culo perché fa troppo freddo da quelle parti per te», e poi lo sperimenta di persona. Ecco, queste sono le nozze, cioè diciamo l'anteprima delle nozze di Lupe e di Denver. Vogliamo fare una canzoncina? Facciamo una canzoncina, una base iniziale. Un pezzo d'amore per il matrimonio. Stool takes money from my hand while he dies. Take a walks all over you. Hands me two tickets, smile. Whisper good luck, cuddle up. Angel, cuddle up. My little dog will ride down, baby, into this tunnel of smell out and you're just the three of us. Maybe you and me and all this stuff we're so scared of. If you wanna ride down, baby, into this tunnel of love. There's a mirror show caught up at infinity. I'm looking at you and you're looking at me. There's a room of shadow that gets so dark, brother. It's easy for the people to lose each other in this tunnel of love. How to be simple, how to be easy enough. Man meets a woman and they fall in love. But the house is haunted and the path is rough, and you just can't live with someone you can turn around. If you wanna ride down, baby, into this tunnel of love. So, ma municipio di Bolzano, Peratone, quell'uomo inciso. Questa è la macchina di un finanziere che insegue un architetto. Un architetto che ha tenuto dei fondi in Svizzera, diciamo così, e non poteva, chiaramente. Sta andando a recuperarli, ma il finanziere riesce. Riesce. L'architetto si chiama Renzo Piani. Renzo Piani. È più in voga qua a Bolzano. Esatto. Eccoci. È un personaggio che era nato prima del libro e che era stato messo in un quaderno in attesa di dargli un ruolo. 2-3 anni fa Daniele mi ha mandato un sms dalle sue vacanze scrivendomi: ho un bel nome per un personaggio dei tuoi libri, l'architetto Renzo Piani. Bellissimo, mettiamolo, se no non me lo dimentico, l'ho segnato. Poi quando un anno dopo abbiamo cominciato a scrivere il libro insieme, a un certo punto quando siamo arrivati a definire un po' quella che doveva essere la trama del libro, ho detto: beh, allora a questo punto tiriamo fuori quel personaggio che tu hai gentilmente girato un anno fa e lo piazziamo nel libro. Infatti è un personaggio che ha un suo perché nel libro, anche se viene stroncato sul nascere da questo finanziere, però insomma è l'artefice di molte cose che succedono anche dopo il suo arresto. Questa era la casa russa di Merano. Merano ha una colonia di russi molto importante, che c'è da un paio di secoli, diciamo, se non di più. E quindi compaiono anche nella nostra storia, diciamo, dei russi moderni, però tutto sommato dotati di buon gusto, diciamo, che rilanciano. Avete visto quella casa diroccata che è poi il Grand Hotel Paradiso di Gio Ponti in Val Martello, e che noi immaginiamo ancora in piedi. Queste foto sono state prese pochi anni fa. E noi immaginiamo che questi imprenditori russi lo rilanciano con una nuova forma particolare di turismo, e anche molto sostenibile, per quello dico non sono completamente privi di gusto, no? Rispetto a noi che siamo un po' sul cliché anche come sfruttamento del turismo senza grossi idee, insomma, Così vi ho spiegato quell'edificio che viene su dal bosco, insomma, che vedevate da un po', era stato fatto, è stato aperto in realtà 4-5 anni, perché poi è scoppiata la seconda guerra, per cui è stato immediatamente chiuso, ed è lì da allora abbandonato. Era stato fatto per ricordare un po' come struttura una nave tipo da crociera, perché c'era l'idea che quelle sagome lì, diciamo, facessero bene ai polmoni, e la gente associava la crociera di mare, e allora per spostare il gusto verso la montagna gli aveva anche fatto una specie di prua all'albergo, insomma, che noi immaginiamo invece aperto nel suo splendore, diciamo, così. Questi sono dei libri animati per bambini con delle moschee, questa era una delle moschee di Tunisi, e anche dopo, e questi compaiono perché immaginiamo che il nostro sindaco, scappando, cioè andando in gran segreto verso le Hawaii, va al convegno dei sindaci del nord-est, va a questo convegno a Verona, da cui poi parte per le Hawaii, che è il convegno dei sindaci del nord-est, dove succedono anche una serie, una serie di cose incredibili, tra cui un sindaco del nord-est che ha questo libro animato con queste moschee per dargli fuoco, fare una specie di spettacolino a questa convention dei sindaci, diciamo così. E allora abbiamo fatto questo è l'albergone, vedete? Sì, volevo chiedere se ci leggete dopo quello dei sindaci del nord-est. Ma l'avete già mandato al sindaco questo libro? L'ha già letto, sì. Ah, non è lui, è il sindaco. No. Viene spesso successo il suo successore, è il prossimo, che non sappiamo chi sia, però. Diciamo, allora, tanto sono tutti uguali, possiamo fare questi discorsi da altri, tanto sono. Facciamo uno strappo alla regola. Leggendo e facciamo quella lì. Io leggo brevemente un ultimo pezzettino di Denver Venosta e dei con un suo editoriale sulla candidatura del sindaco. Ecco, dopo... tema, esatto. Sull'origine del termine candidato. Attenzione. Candidamente, questo è un editoriale pubblicato sulla Haina Star Bulletin che dà molto fastidio chiaramente. Ai politici locali, però insomma molto vero anche. Candidamente, sì, credo che sia questo l'unico termine che mi sento di citare tra i tanti con la medesima radice, il latino candidus, cioè essere bianco. Per poter parlare a cuore aperto di un singolare appuntamento che si tiene in una nota località turistica del mio paese d'origine, i miei concittadini sanno di cosa si tratta. Ma dal momento che chi mi legge altrove potrebbe esserne all'oscuro, dirò che operatori turistici e faccendieri si sono inventati da qualche tempo in qua una specie di sagra della futilità che per un weekend vede riuniti candidati di ogni tipo e genere che si ritrovano a gozzovigliare a spese di partiti e associazioni, il che vuol dire, a conti fatti, a spese del contribuente che in qualche modo attraverso le tasse che paga, finanzia indirettamente questa assurda manifestazione. Questa manifestazione è il raduno di San Candido che viene scelto per via del nome. Considerate che chi si è studiato questa dispersione di tempo, soldi e risorse umane, ha pensato bene, siccome la fine di settembre, periodo in cui andrebbe festeggiato il santo omonimo della località turistica, mal si adatta alla bisogna, di spostare la data della sagra al mese di gennaio, subito dopo le vacanze di Natale. Ma torniamo alla radice latina della parola candidato, quella radice a cui mi riferivo poc'anzi, l'essere bianco, perché bianco era il colore della veste indossata, secondo l'uso degli antichi romani, da chi aspirava a una carica nella magistratura. Bianco inteso come sinonimo di puro, innocente, schietto, una serie di parole, di concetti che sembrano completamente andati persi di vista, se non persi del tutto, in antitesi con la piattezza del panorama politico degli ultimi tempi. So che qualcuno mi giudicherà vecchio e pedante, vi assicuro che non lo sono, la mia intenzione è solo quella di far riflettere, che ognuno tragga poi da sé le conseguenze. Sapete che da tempo ho scelto di vivere in un altro luogo, quasi un'altra dimensione, che non so se sia migliore, ma di certo mi fa sentire meglio. Quello che vedo, sento, leggo, perché nel mio dorato e volontario esilio vaiano non ho mai voluto perdere il contatto con il nostro Sudtirolo o con l'Italia e il resto del mondo in generale, è che i candidati, quelli di cui ho finora notizia, sono l'esatto contrario del significato originale del termine. Falsità, spregiudicatezza, a volte anche slealtà, queste sono le caratteristiche ricorrenti che noto nei candidati a cariche politiche. E perché no, anche ad altre cariche. Nelle democrazie, veramente degne di questo nome, dovrebbe essere il popolo, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti, a scegliere una rosa di candidati, tra i quali fare eleggere poi il governante o quel che è. Ma una democrazia degna di questo nome, specie dalle nostre parti, credo che si possa chiamare utopia. Vedo invece sempre più spesso gente che si autocandida, o per usare un termine che a questa gente piace molto, scende in campo, come se dovesse combattere una battaglia. Chiunque può candidarsi o scendere in campo. In genere lo fanno quelli con la faccia peggiore. Ne ricordo uno, mercatante e faccendiere particolarmente senza arte né parte, che qualche anno fa aveva offerto alla mia città la propria disponibilità, o sarebbe meglio dire ambizione, a diventare sindaco. Questo almeno risultava da un articolo sul giornale locale. In una lettera aperta gli chiesi a che titolo si sentisse il diritto di farlo. Lui si prese il lusso di telefonarmi personalmente a casa, all'alba, appena letta la mia lettera, per smentire il fatto che avesse offerto la propria candidatura. A sua detta si trattava di un'invenzione della giornalista. Gli risposi che allora era con la giornalista che doveva chiarirsi, non con me. Mi disse che lo aveva già fatto e che sarebbe stata pubblicata una smentita sul giornale. Non avvenne mai. Nessuno lesse quella smentita e probabilmente sono ancora oggi l'unico ad averne sentito parlare. E ci sono quelli che ritengono di meritarsi le candidature solo in virtù del fatto di essere i governanti uscenti, come se un diritto divino li avesse investiti di questo privilegio. Come dire che una seconda volta non si può negare a chi ha già letto bene o male le sorti di una città, di una regione o di uno Stato. Un doppio mandato inconcepibile in Africa, dove chi si appresta a regnare per l'unica volta concessagli era esposto alla gogna dei futuri sudditi per 10 giorni e scoraggiato con ogni sorta di affronto dall'accettare, come ci diceva prima, l'incarico che qui invece spetta per inerzia. Non conosco nessuna legge scritta che affermi ciò, eppure succede regolarmente. Ecco, le Hawaii non saranno l'isola del libro di Voltaire, il cui protagonista si chiama, guarda caso, Candido, ma mi fanno sentire abbastanza lontano dal marciume generale. E prima di lasciarvi, sempre a proposito di parole derivanti dal termine latino citato in apertura, mi sovviene un'affezione, un fungo a volte patogeno per l'essere umano, una sorta di muffa che può colpire la cute e le mucose, nota anche col nome di mughetto, perché proprio qui andrai cercando un nuovo significato, o meglio, una nuova associazione al termine candidato, più vicina appunto alle muffe della candidosi che non all'originaria veste degli aspiranti a cariche pubbliche della Roma. Cioè li chiameresti gli ammuffiti, diciamo, anziché capisco. Ecco, per dovere di precisione, l'episodio che succede a Denver Venosta del tipo che si candida, anzi si autocandida e poi smentisce la cosa, è successo veramente a Bolzano alcuni anni fa. C'era tanto di articolo che lui si autocandidava all'elezione come sindaco. Io ho scritto una lettera al giornale chiedendomi da quando in qua succede che uno si autocandida, e lui la mattina alle 6, appena letto il giornale, mi ha telefonato tirandomi giù dal letto. Premetto che io non lo conosco personalmente, questo è uno solamente molto pieno di sé, e che mi ha detto che lui non è vero che sia autocandidato, che è la giornalista che ha scritto sbagliato e che sarebbe uscita sul giornale la smentita. Io a tutt'oggi, ci sono state 2 elezioni a sindaco nel frattempo, anzi credo 3, e però non ho visto smentite. Va bene. Il convegno dei sindaci del Nord-Est. Un finalino con questo convegno dei sindaci del Nord-Est, che noi immaginiamo sia appunto la base di partenza di questa fuga havaiana del sindaco in carica a Bolzano. Cioè coglie al volo l'occasione, da Verona racconta qualcosa a sua moglie che va direttamente al passo dell'Umbrail per 2 giorni eccetera eccetera, perché la strada è bloccata dalla neve, allora non ripassa più da Bolzano, va su da un'altra parte, dalla Lombardia, e diciamo così, quindi adesso arriva a Verona. La conferenza dei sindaci del Nord-Est raccoglieva i primi cittadini di tutti i comuni che si trovavano tra la sinistra orografica del fiume Adige e i confini di Stato. Quell'anno il meeting faceva registrare 2 importanti novità. erano stati esclusi oltre una cinquantina di infiltrati che non corrispondevano ai criteri geografici fissati dalla commissione di storici incaricata di rafforzare ulteriormente l'appartenenza nordestina e di trovare a tutti i costi un termine meno ingiurioso di confini di Stato per non lasciarne propagare all'infinito il concetto verso est, a rischio di ritrovarsi sulla sedia accanto slavi, ungheresi, polacchi, austriaci, romeni, eccetera. Dopo mesi di studi febbrili, a qualcuno era brillata la soluzione, tra la sinistra dell'Adige e la catena alpina. L'altra grande novità consisteva nell'aver aperto il primo dei tre giorni della conferenza anche al pubblico dei non addetti ai lavori. Il sindaco era in leggero ritardo a causa di uno svincolo sbagliato imboccato dal suo autista sulla tangenziale di Verona, che li aveva precipitati in una sorta di Gotham City di metallo e fumi chiamata Fenilon. Esiste sul serio. Il palazzo dello sport, sede dell'incontro, si era infine materializzato, ma al passare dei minuti mai si avvicinava alla transenna che i forzuti delle ronde padane, addette al servizio d'ordine, avrebbero spostato di lato per far accedere le auto blu dei sindaci invitati. La causa di tutto ciò era la fiumana di gente che procedeva lenta verso gli accessi alle tribune riservate al pubblico, indugiando tra dispensatori su ruote di folpi ripieni, Musetto, Nervetti, Peverada e bancarelle di magliette o di gadget, messe a fare da ali a un ideale viale d'ingresso nel deserto del parcheggio. La mano del sindaco era già penetrata più volte nella borsa da viaggio per controllare di non aver scordato nulla: carica batteria del cellulare, biglietto aereo, carta di credito, traccia del discorso da tenere in mattinata e di quello per la cerimonia di gemellaggio. L'angioletto di Thun tempestato di pietre nobili, valore 8.000 euro, da portare in dono alle Hawaii, oltre al suo costume da bagno a braghetta verde, il colore della speranza. «Scendo qui», fece a Battista. «Tu tornatene pure indietro quando riesci a girarti. A rientrare dopodomani mi arrangio io. Vedi invece di tanto in tanto se a quella rogna di mia moglie servisse mai un passaggio, così risparmio qualche bugna al mio Merz». «Tranquillo, sindaco», fu la risposta. Richiusa la portiera alle proprie spalle, si trovò in pieno casino. Un giovanotto gli porse un volantino indicandogli una fila di persone in attesa davanti a un tavolino. Si trattava di un pressante invito rivolto ai veronesi a firmare una petizione per cambiare il patrono della città, San Zeno. «Via il Santo Negro da Verona», c'era scritto. «Vota Procolo!» Dalla bruma che avvolgeva il palazzetto si udiva la voce dello speaker che annunciava a intervalli irregolari l'ingresso dei sindaci sul palco. «Udine!» Poi un coro degli spettatori di cui non era ancora in grado di decifrare il messaggio. «Valdobbiadene!» Boato. Il cerimoniale prevedeva che i primi cittadini entrassero di corsa, si fermassero al centro del palco nell'occhio di luce, afferrassero un microfono sospeso come gli arbitri sul ring della box, rispondessero laconicamente al saluto per poi discendere di corsa la scaletta e raggiungere il proprio posto in platea. Raggiunta la transenna, prima di altri le cui vetture precedevano la sua nella coda, fu squadrato dalle due montagne di carne in camicia verde che presidiavano l'ingresso autorità. «Parola d'ordine», si sentì chiedere, annaspando nella mente, per sostituire agli oscuri nembi di pensieri che la opprimevano, il ricordo del post scriptum dell'invito letto giorni addietro e lasciato puntualmente a casa. «Ostia!» disse proprio nell'attimo in cui la memoria gli spediva la risposta. I gai. Vide gli occhi delle due palle da bowling montate sul collo taurino farsi più stretti e minacciosi. «Parola d'ordine!» proruppero all'unisono. I gai, mormorò il sindaco, che solo quella riusciva a ricordare. La transenna si aprì. Nell'entrare, però, Palla 2 lo stoppò tendendo di lato un braccio duro come una puleggia. «Cosa sai che vuol dire in dialetto itaico?» «Hanno legato i galli», rispose il sindaco, infilandosi tra i due spazzoloni da autolavaggio che si aprivano per fargli strada. La voce amplificata dello speaker da lì saliva altissima. «Vicenza!» Solito boato, ma anche un coro, ora perfettamente decifrabile. «Magna gatti!» Il saluto al microfono del suo omologo vicentino si sentì altrettanto bene. «Ve saluto tutti, andea torve un culo!» E giù una salva di fischi. Appena entrato nella penombra del corridoio degli spogliatoi, in mezzo a tanti suoi colleghi in attesa di chiamata che conversavano tra loro a gruppetti ravvicinati per capirsi nel caos delle entrate in scena, Il sindaco udì lo speaker urlare: «Bolzano!» Strinse la maniglia della borsa da viaggio nella destra e prese a trottare verso il fondo, dove si infilava un tunnel a soffietto retrattile che riparava fino al centro del palco i protagonisti del meeting, da lanci di monetine, sputi e altri oggetti contundenti che provenivano dalle tribune. Riuscì anche a leggere un cartello, messo a precisare che il tunnel retrattile era foderato in autentico prosciutto di Sauris Doc, quando dagli spalti, tutti d'accordo nell'occasione, si levò un massiccio e ripetuto «Cruco di merda!» 5 clap di mani e poi di nuovo. Sembravano non volersi fermare, ma quando la breve corsetta provocò al sindaco una scarica di tosse amplificata dall'impianto, questa ebbe l'effetto di una bomba. Il Palasport si zittì. Fu in quel silenzio irreale che udì se stesso dire «Terroni d'Irlanda». La rata colossale di fischi fu seguita da un fitto lancio di frico unto e bollente, sotto il quale, a passo d'uomo, proteggendosi il capo con la borsa, il sindaco scese dal palco sul parterre, mescolandosi alla platea di colleghi che osservava divertita, applaudendolo. Qui arriva, diciamo, sul palco il sindaco, diciamo così, e poi vanno avanti delle presentazioni ufficiali, eccetera, eccetera, e parlano molti sindaci. Vi leggo un altro piccolo pezzettino con, diciamo così, un sindaco del Trevigiano che arriva sul palco, dice: «Il primo di loro raggiunse il podio dell'oratore sparando in aria e roteando un lazzo, seduto sulla schiena di 4 africani che, legati insieme a testuggine, procedevano a gattoni. Li abbiamo pescati sull'autobus riservato ai veneti», furono le sue prime parole appena sceso. «E anch'io se diventai un autobus!» Esplosione di risate, sventolio di bandiere con il leone di San Marco sulle tribune. Un altro enfatizzò l'apertura della cartelletta contenente il proprio discorso, non perché dovesse dire cose mai sentite, bensì perché l'aveva attrezzata in modo che, aprendola, sbocciasse fuori la sagoma di una moschea, come nei libri animati dei bambini. Il megadito fu il suo incipit, che dei esimi coeghi iga autorizzà la costruzione de una roba così nel posto dove che comanda e ori. Mi, dove che comando mi, me ha trovata fatta e finia da quel mona del sindaco che c'era prima. Sa fe cosa che ho fatto? Lasciato un attimo di suspense, accese un fiammifero e diede fuoco al modellino cartaceo in un boato di approvazione del Palasport, sul quale il sindaco ripeteva roco nel microfono «No moschee!», sollecitando il pubblico a una lugubre cadenza con le mani «No moschee!». Ecco però che, mentre l'arguto oratore si volgeva a deliberare il consenso proveniente dalle tribune alla sua sinistra, non si avvide che la fiamma del rogo da lui generato, esaurita in fretta all'opera distruttrice dei simboli religiosi e non trovando di meglio da fare, si era attaccata alla manica della sua camicia di flanella, propagandosi con rapidità impressionante e trasformando il suo costume d'arancero in una torcia. Al bonzo involontario provvidero tosto i vigili del fuoco, già allertati dal primo falò, con coperte ed estintori. Il sindaco pensò trattarsi di una buona metafora degli effetti sociali di lungo periodo di tale politica di intolleranza, largamente diffusa in un Veneto che non aveva ancora scoperto i mirabili vantaggi dei meccanismi di inclusione e separazione praticati in Sud Tirolo. Lo speaker ufficiale pensò invece di chiamare anticipatamente la pausa caffè. Però se avete qualche domanda sono disponibili a rispondere. Anche noi siamo divertiti, stiamo precisando che è stata una bella avventura. Cos'è questo? Questo sembra qui nostro, ma è hawaiano. No, avrete notato questo caffè? Questo qui torrefazione. Il caffè hawaiano, perché c'è un riferimento al caffè hawaiano nel libro, e questo qui è uno dei posti dove lo tostano. Il tutto nasce dal fatto che allora cresce questo caffè particolare, che secondo Mark Twain, che è un... Queste sono le camicie hawaiane. Sì. Secondo Mark Twain, che è un notevole scrittore, il caffè di Kona, Mineravai, è il caffè migliore del mondo. Il problema è che bisogna vedere come viene lavorato e poi fatto, perché il problema è che lì il caffè lo fanno per farlo all'americana e quindi comunque è sempre sciacquatura di piatti alla fine. Probabilmente se lo facessero, lo lavorassero come lo si lavora invece in Oriente, avrebbe un altro tipo di... Questo è il Poi Dog, questo è il Poi Dog, razza hawaiana. Una razza di cani tipicamente hawaiana che è citata. È citata anche nel assieme al Cala Glabro, che è scomparso, però in alcune ibridazioni si conserva quasi senza pelo, diciamo. C'è tutto un... Gli animali originali hawaiani di per sé non esisterebbero perché ce li hanno portati gli indigeni che venivano dalle isole del sud della Polinesia, che sono quelli che hanno portato sia i semi delle piante che ci crescono nelle Hawaii, sia gli animali che erano già conosciuti nelle loro isole. Gli hawaiani originali, proprio quelli, non esistono più perché erano finiti prima che arrivassero gli occidentali. E per quanto riguarda gli animali, appunto, molti sono estinti e molti sono sulla via dell'estinzione, perché comunque a un certo punto della storia dell'umanità alle Hawaii ci fu un'invasione di ratti incredibile, il che poi portò a epidemie di peste che fecero bruciare buona parte della città vecchia di Honolulu per deratizzarla e disinfestarla. Sì. E ci fu l'importazione delle manguste, per cui sulle isole ci sono molte manguste che si mangiano tutti i ratti, e i gatti sono praticamente ridotti dei poveri scheletri ambulanti. Io l'ho visti al porto di Hilo e faceva impressione questa cosa, cioè questa quindicina di gatti spelacchiati e magrissimi che stavano lì aspettando che la mattina successiva arrivassero i pescatori e che gli dessero qualcosa, perché se no il resto di commestibile per loro se lo mangiano le manguste. Ecco, quella è la Val Martello. Questo recentemente hanno fatto un servizio in televisione su sto, su sto coso qua, non mi ricordo più su che rete, a dire la verità, che non sicuro non sono mai stato. C'è anche un bel quaderno di cultura alpina dedicato agli hotel di montagna, che ha tutta una scheda sull'albergo che è molto interessante, fatta bene. Priuli e Verluca sono gli Priuli effetti. E Verluca. Sono molto belli. Quello sulle strutture hoteliere di montagna è molto interessante. Veratone. Che è stato l'ultimo sindaco di lingua tedesca di Bolzano. Tirato fuori a braccia da una comitiva di camicie nere che l'hanno tirato fuori dal municipio. Andò così. Questa era la sua casa, sede originaria del vecchio municipio di Bolzano, e così. Ecco. Grazie. Grazie a voi.